tutto un intero teatro dove c'erano dei bambini piccoli, che c'era una festicciola, delle robe per questi bambini, un centinaio di bambini bruciati vivi. Non è che lei ha pensato e ricollegato sti rituali di sti folli? Tutto qua. Infatti i russi, questi qua, non li potevano vedere, ma non perché erano razzisti, pure loro. Anche nel 1500, quando è stato, non li potevano vedere pure in Gran Bretagna, che loro andavano, facevano i banchieri e prestavano a strozzo. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma i loro notabili ancora oggi ci tengono per le balle del Mosoros di origine ebrea. Lui sostiene che ormai è ateo, che questa gente non ha religione, non ha più religione. Inizialmente, secondo me, l'hanno usata sta cosa, sfruttata per avere anche forza con i loro. Oggi magari ammettono candidamente di non essere ebrei. Anche il loro Dio, il Dio degli ebrei, non, certe cose ci sono dei limiti, anche se ci considerano goim, cioè animali da sfruttare. Tanti non lo sanno, come pure i musulmani, ci considerano, come si chiamano, mi viene il termine, che noi pure siamo delle persone tipo bestie per loro. Se andate a leggere il Corano, andate a leggere i libri degli ebrei, pure. Andate a leggerli, vedete che c'è scritto, cose agghiaccianti. Qua non è una questione di religioni, qua è una questione di esseri diabolici che servono dei padroni che non sono, non vogliono il benessere nostro, ma vogliono solo sfruttarci, poter anche spegnerci e ucciderci a distanza quando noi siamo contro di loro. Ci sono persone in questo momento che hanno la morte sociale, che era una cosa che c'era durante il fascismo, no? Non so se lo sapete, la morte sociale è quando, ecco, loro praticamente fanno in modo che creano una qualcosa in maniera politica, mettono d'accordo, iniziano a spargere voci e ai tempi c'era proprio il tribunale che decretava che tu non potevi andare qua, non potevi fare quello, non potevi partecipare a nulla, non potevi avere amici, in pratica tutti ti dovevano odiare e quella è la morte sociale. Mi pare che una cosa che stanno facendo ora è molto simile. Cioè, ti vogliono dare la morte sociale, non, quasi quasi non devi neanche più andare al supermercato. In Francia già l'hanno fatto, ma per fortuna i francesi ci sono più giovani che da noi. E poi hanno un carattere diverso i francesi. I francesi sono quelli che insieme agli inglesi hanno fatto la guerra dei 100 anni. Ma voi vi rendete conto, 100 anni di guerra, 30 anni pure, hanno fatto la guerra dei 30 anni. Questi sembrano sono stati dei lottatori selezionati nei secoli grazie a queste battaglie, se si può dire grazie. Ci cioè sono delle persone, guarda, noi in confronto a loro siamo delle nullità. Gli italiani invece sono sempre piegati, hanno fatto sempre compromessi. Guardate la storia di Savoia, cosa hanno combinato. Sempre hanno inventato cose, bugie su bugie. Tipo una volta c'era uno che era nemico e iniziavano a inventarsi storie, che era una cosa dai tempi che erano nemici. Poi tutto un tratto si imparentavano da amici. Ah, c'era lo storico che trovava un documento antico all'improvviso dove erano amici, erano parenti, gli stessi nemici di prima. Cioè, quindi se le palle che hanno sempre raccontato i potenti. Io stesso ve lo posso confermare, ho un dirigente che è un pallista, imbroglione, ingannò. Cioè, guarda, una roba se gira e rigira le cose mi fa schifo. Se potessi, guarda, ma non voglio dirlo, cosa mi piacerebbe che gli succedesse? Anzi, lo dico, quello il minimo. Che l'altro giorno io ho avuto uno sfogo e praticamente ho detto, guarda, io vorrei che questo qua lo vorrei vedere che perde tutto. In strada a piangere, perché questo piangerebbe soprattutto una bestia se perdesse tutti i soldi che c'ha sto delinquente qua. Non l'ho detto, eh. È una cosa che ho letto su un libro, non è un'idea mia. Mi raccomando, se mi state registrando, io ho paura, mi state registrando. Meno male. Allora, l'off-grid. Allora, Allora, praticamente sarebbe un'idea che però non si sa quanto dura, perché ci sono degli staterelli per ora in cui si potrebbe vivere, tra cui la Romania, soltanto il 25% hanno aderito e gli altri proprio sono fortemente contrari. Qualcuno sostiene che durerà anni, se non decenni, questa cosa, perché i romani pare che abbiano una testa abbastanza dura. Però ci sono delle criticità. Intanto dobbiamo tenere conto che se questa cosa si espande, con un colpo di mano fanno fuori il governo romeno, che ne so, e impongono tutto con la forza, più avanti magari, non so, quando già ha iniziato a decimare la popolazione mondiale, visto che c'è un medico, per esempio, non so se avete visto l'intervista, che ha detto pure che lui rischiava di morire parlando con certi rabbini medici, pure loro, spiegando le sue ragioni. E ha detto che questo qua pare che abbia curato Trump ed altri importanti dal Covid addirittura. Ha detto che secondo lui, in base a quello che sa lui e le analisi, tutte le cose, le sue esperienze, visto che non vogliono curare con le terapie tradizionali che ha usato anche lui, no? 2 miliardi di persone ha calcolato in 2 anni di morti, almeno. Noi vediamo sotto i nostri occhi, se facciamo una ricerca su Google, settando la data dall'inizio di quando ha iniziato queste cose, ci sono tantissimi morti in più, no? Le cosiddette morti, come si chiamano? Aspetta, improvvise, una cosa di questa, i malori improvvisi, malori. Questa è stata l'estate dei malori. Ogni tanto inizialmente i giornali riportavano, se vi ricordate, che era vaccinato, ora neanche più quello, gli avranno dato l'ordine, non scrivetelo. Forse hanno tentato qualcuno un po' eroicamente a farlo, a un po' svegliare la gente. Forse. Anzi, ora non vanno altro che dire notizie del Super Novax morto, ma come sappiamo noi a sapere se è vera, se veramente era Super Novax. Io sono andato sulla pagina di questo ultimamente, che è morta lei, che ha infettato tutti, solo i figli sono vivi, la madre è grave. Ma sulla pagina Facebook non c'è scritto nulla. C'è un Super Novax, come minimo, faceva pubblicità a mille. Mi pare un po' assurdo che questa è una Super Novax. Ora ti rispondo sull'offering, perdonami. È che praticamente quando inizio un discorso so talmente tante cose. No, leggo talmente tante. Comunque, sull'off-grid ti rispondo, ti ho risposto in realtà a metà. Secondo me ci sono dei paesini che però non so quanto durano. Ti ho risposto, si può andare, ora lo amplio, si può anche andare, c'è gente già che lo fa. Io ho conosciuto un italiano che in un posto dove si è fatto il suo ecovillaggio, ha creato 5 case, dice aspetto magari degli italiani se vogliono, dice pure nei suoi video di YouTube, in uno in particolare, fa vedere anche la terra che coltiva, come fa lui, lì poi ci sono delle tecniche diverse, visto che c'è più freddo dove abita lui, e comunque riesce a coltivarsi i suoi ortaggi. Scusami, c'è pure la serra. E praticamente lui pensava che ci va qualcuno e va in questo ecovillaggio. Non so come sopravviverà, visto che quando gli ho detto, allora ognuno si prende la sua terra e tutti insieme poi, e lì ha iniziato a scocciarsi. Oh, chissà cosa, che intenzioni c'ha questo qua, non l'ho capito bene. Forse vuole che lavorino nella sua terra la gente. Comunque, ci sono già queste realtà. Lui pensa di andare, come dici tu, in autonomia, perdonami, io odio queste parole in inglese, anche perché ogni volta che le usa il governo è sempre per mettercela dove non batte il sole, se ci fai caso. Tutti i termini inglesi sono sempre per fregarci. Quindi io, che sono italiano, voglio parlare in italiano, anche perché è giusto, perché la mente si allena se tu usi le parole giuste. Quindi questo andare in autonomia, diventare autonomi, è giusto. Anche lui vuol farsi i pannelli, i fotovoltaici, quello che sia. C'è il mini eolico che si può sfruttare, addirittura la corrente di un fiume, se è abbastanza forte. Si può fare tutto, si può anche pedalare con le biciclette, si pedala e si muove una dinamo. Questo pure si può fare con un accumulatore. Una batteria, se si è in tanti, si può creare energia elettrica anche per più ore, insomma, di più. Uno da solo magari deve stare 2 ore, comunque, se non di più, e non ce la fa. Quindi si può produrre questa energia, un minimo purtroppo va sempre all'Enel qui in Italia, andando all'estero. All'estero intanto devi studiare la lingua, prima cosa. Le comunità sono sempre più attaccabili perché la gente è tutta lì concentrata, quindi se loro volessero fare qualche azione, a meno che non essere molto ben preparati, aver creato cunicoli, che ne so, proprio cose assurde, lui si può anche scappare di nascosto, che ne so. La vedo un po'. Allora, o uno ci va convinto comunque che seppure finisse male, potrebbe anche dire: guarda, io c'è gente che conosco, tra cui io, preferisco morire con un'arma in pugno lottando, piuttosto che strisciare e farmi cippare, eccetera, eccetera. Lo capisco mille volte. Non è una cosa che posso sopportare neanche al pensiero. Quindi o uno decide, vivo la vita ogni giorno, giorno per giorno, che tutto diventerà in Technicolor all'improvviso, perché sai, da domani ti aspetti che tutto può succedere, allora tutto un tratto ti calmi finalmente, dici basta, quel che sia, non me ne frega niente. E lì ti calmi, non ti agiti più. Se è così, magari potrai vivere bene questi anni. Poi magari, chi lo sa, con tutta questa calma ti verrà anche delle idee migliori, che poi magari Dio veramente si attiva, ma dentro di te, e quindi finalmente diventi sveglio, magari ti viene una premonizione prima che ti vengano a cercare, perché noi abbiamo queste dimensioni che non conosciamo, questi poteri, e ti puoi salvare magari, chi lo sa, oppure qualcuno viene nella tua vita e ti spiega, ti avverte, chi lo sa, tutto è possibile. Si potrebbe fare con dei terreni vicini, ovviamente, con gente veramente motivata a difendersi in caso, difendere coltivazione e tutto, e aiutarsi a coltivare, eccetera, eccetera, come già abbiamo detto più volte. Si può fare anche all'estero, ci sono vari paesi, ci sono addirittura ancora dei paesi caldi dove si può ancora fare. C'è addirittura uno, mi ha detto questo mio amico, che sta cercando anche lui di fare così, però lui non lotterebbe, e vabbè, fatti suoi. In Brasile, in un bosco, va ogni tanto sulla spiaggia, siccome a lui piace questo, è la sua felicità, c'è la spiaggia e il bosco, può cacciare, può. Anche lì ci sono le criticità, perché nel bosco ci sono animali feroci, ci sono gli animali velenosi, ci sono i problemi, 5.000 problemi ci sono. E quindi anche questo si deve considerare se uno vuole fare una vita così. Oppure con la classica casetta, all'estero, dove sono condizioni migliori, perché magari un terreno costa non so, qualche ettaro, costa 500 euro, piuttosto che qua che costa 1.000 euro, 20.000 euro, anche 21.000 euro, quello che sia. E praticamente così si può fare, è fattibile. Solo che bisogna sbrigarsi, perché io sto leggendo che inizia a scarseggiare il materiale, inizia a scarseggiare pure il cibo. Non so se avete visto, ultimamente si è incagliata un'altra porta container, come l'Evergiven. Quindi chissà quanti mesi durerà, già hanno detto, se andate sul sito di Maurizio Blondè, leggete quello che c'è scritto, la penultima notizia. È preoccupante. È già iniziata. Già iniziata. Quindi meglio che iniziate a farvi scorte, se non l'avete fatto. Adesso sei tu che si sente il trillo del diavolo. Sì, adesso non si sente più. Allora, sì, poi se vuoi ci scriviamo, forse tu sei il Kumamoto, insomma, ho letto sulla chat di il vecchio Kumamoto. Ah, quindi non sei tu. E loro si sono confusi, pensavano che tu fossi uno che è stato espulso dalla chat, che ha iniziato, ma non, infatti non mi sembrava, come assurdo, ha iniziato a sproloquiare e metteva come Bibbia sacra tutto un tratto. Open, sai, quello che diceva Mentana era sacro, oppure diceva, ma infatti, cioè, sosteneva che parlava con la, come si chiama, con l'esperta, la Bolgan, che gli mandava gli email, le email, per me erano tutte cazzate. Questo era una specie di mitomane, era diventato, secondo me, impazzito con la paura, perché inizialmente non era così. Poi col tempo, a forza secondo me di vedere notizie e cose, è impazzito. Comunque, sì, ma in quel caso è meglio che questa gente si sgancia, la smette di stare sul web, perché sennò impazziscono e non vede più notizie, niente, si distrae. Infatti anch'io ultimamente ho almeno una che si è addirittura scoperto che ha tentato di suicidarsi. Sì. Ma la paura fa parte, cioè la paura può essere, se noi la sappiamo, come dire, usare per come si deve, serve per smuoverci, non per bloccarci, per paralizzarci. Quando è troppa, paralizza. Cioè la paura è nata per farci superare gli ostacoli. È normale che si abbia paura. Chiunque ce l'ha. Per esempio, c'era un generale che usava un metodo che poi ha preso il suo nome, e che lui, quando l'hanno intervistato, visto che era di successo, a quanto pare riusciva a vincere, e in quel periodo i generali si mettevano in testa all'esercito, non si cagavano addosso e si nascondevano nelle retrovie o in altri posti nascosti. E lui era in testa all'esercito, con la spada in pugno, e urlava avanti ai suoi uomini, no? Immaginati che coraggio che aveva questo qua. Ma lei dice, come ha fatto a fare una cosa del genere? Nell'intervista dice, niente, io, dice, ma lei non ha paura? No, dice, io ho paura tutto il tempo, che ha fatto. Solo che dico al mio corpo, avanti, vecchia carcassa, muoviti, devi fare questo, è il tuo dovere. E il corpo si muove. Quindi. Eh sì, è così. Ma poi casomai privatamente ci possiamo rapportare. Io qualcosa praticamente ho sotto mano, qualche idea ce l'ho, perché ho avuto anche contatti con, quindi so più o meno dove stanno creando questi gruppi. Tra l'altro anche Baratini ultimamente ha sotto mano uno, ha fatto un'intervista pubblica sul suo canale con questo qua che sta creando questi ecovillaggi, anche lui. Ce ne sono più persone in realtà che stanno creando. Ora non vorrei che, visto che si creano, metteranno una tassa sugli ecovillaggi, perché quando c'è tanta gente, lo Stato, che chi comanda in realtà lo Stato, si frega le manine e dice, le manacce in realtà, le manacce arcigne da rapace. Praticamente dobbiamo immaginarci che a posto delle mani hanno dei uncini tipo le dita, quelle là dei rapaci, quello, gli artigli. E praticamente con questi artigli già se li stanno già ridendo, dice, ah, vediamo, appena aumentano iniziamo a mettere una tassa. Inventeranno che chissà che cosa inventeranno, che non è In realtà prima. già dall'anno scorso, insomma, già da quando è iniziata la storia del Covid, i prezzi sono già saliti, mi hanno detto. Perché già un po' di gente è andata a vivere, si è data all'agricoltura, ha perso il lavoro, insomma, chi ha potuto, chi aveva qualche aggancio, ci si è messo. Quindi, boh. Ah, se vuoi, ah, la Croazia, ma ci sono anche altri posti. Allora, praticamente, secondo uno che ho sentito, sarebbero Croazia, poi Albania e chiaramente anche la Bielorussia. Bisogna vedere perché là in Croazia e in Albania sono molto razzisti, purtroppo. E anche come si chiama, in Romania no, verso gli italiani. In Albania pure volendo, però è chiaro che se non sai parlare la lingua, soprattutto in Croazia, ho sentito delle storie da una croata che ho conosciuto, una di origini croate. E lei mi ha detto che quando era piccola era con suo papà gli diceva non dire niente, non parlare, se casomai ti chiedono cose parlerò io, perché se ti sentono parlare in italiano, che lei parlava in italiano, poi non va bene, insomma, questi potrebbero reagire male. E infatti ogni cosa parlava lui che era nato lì e sua figlia si è stata zitta. Farti capire a che livello sono. Se tu non parli la loro lingua, o non sei molto ricco e ci sai fare, comunque non basta se sono molto ricco. E comunque hai amici giusti, agganci giusti che ti aiutano. E non lo so in Croazia come può andare, perché sono razzisti purtroppo. Anche i bosniaci non sono persone. Tra l'altro ho sentito che pure devi pagare tipo specie di tangenti quando ti muovi, ti fermano la polizia. Se sei di là, magari no, ma se sei, capisco come sei di fuori. Lo so io, me l'ha detto proprio, e questo è affidabile, non è una cretina. E beh, se ti piace l'Albania, certo non c'è il freddo del nord, sicuramente è meglio. Un consiglio che ti posso dare, se tu hai questa determinazione, cercati dei video su YouTube gratis su lingua giusto albanese. E secondo me ti aiuteranno molto, perché ci sono persone molto preparate, cioè che sono proprio madrelingua, disposti anche a insegnarti online, diciamo, pure a pagamento ovviamente, gli stessi che hanno fatto il video. Io per esempio una volta ho visto che c'è una che fa dei video in una lingua, insomma, di un paese in cui anch'io sto cogitando se mi conviene andarmene, anche per tanti motivi che non spiegherò qui. E questa è bravissima. Tra l'altro, ascoltando lei, ti spiega proprio come devi articolare. Un consiglio che ti do è di imparare come devi articolare le parole, che è importantissimo. Per esempio, la L nostra non è la L albanese, per esempio. Non so loro come la mettono. Per esempio, la lingua potrebbe essere più indietro. Messa di là, ci hanno dei modi diversi, insomma, di articolarla anche in base alle parole che dicono. Quindi, secondo me, ti dovresti concentrare anche su come si articolano per essere più simile possibile a come parlano loro. Io, infatti, ho provato a fare come suggerivano nel video e poi chiudo. Scusate, non voglio dilungarmi. Ti dirò, mi sono meravigliato, ho parlato uguale quelle parole, poche parole che ho detto, come fanno loro. Prima non riuscivo, prima di vedere questa donna, quindi un consiglio che ti do è quello. Ma comunque in Albania molti parlano anche l'italiano, eh? loro ricevono la radio, la perché sono stati in televisione. Italia e sono grati agli italiani perché li abbiamo aiutati. No, perché ricevono la TV, loro guardano la TV, guardano la nostra, anche la radio. Per sapere l'italiano è anche vero che quando è stato negli anni 90 venivano ondate qua perché erano di fame. Non so perché, ma io ti immagino come un Bonatti. Bonatti era, al di là di essere un ottimo alpinista, scusami, è stato pure una persona coraggiosa. Tanti non lo sanno. Ha scritto pure un libro in cui lui andava in natura. A un certo punto ha capito che non aveva neanche bisogno del fucile. L'ha lasciato sul fondo della canoa. Gli animali, lui non aveva paura e gli animali lo capivano e non lo attaccavano. Guarda che in Croazia ci sono gli orsi, però, occhio, non si sa mai. Senza contare che la gente è abbastanza calorosa. Ho visto dei video, fanno delle feste gli albanesi, quindi se vai... Caspita, complimenti. Mi togli una curiosità, se puoi. Di che range di età si tratta nel tuo caso? Io ho 47 anni. Beh, siamo vicini, hai visto? Ma sei ancora giovane. Anche io. Sì, ma faccio che le bacche di mirtillo devono essere mature, altrimenti la roba acida, pure quella fa danno. Per esempio, quello che fa danno al corpo sono robe acide, lo dico anche per gli altri, robe acide, salato, perché di solito le robe naturali, se mangiate crude, hanno il loro sale naturale, tipo si chiama insalata perché ha i sali minerali, non per quello, l'hanno chiamata apposta così. Poi, dolce salato. Agrodolce, sono veleni tossici. Io anni fa sono andato in Germania e loro sono folli che gli piace l'agrodolce. Infatti c'era una che sono andato in un fast food, come si può chiamare, e praticamente c'era una specie di brodaglia agrodolce e me la voleva mettere sopra praticamente a quello che avevo preso. Ed era tutta allegra, la rimestava lì, che c'è l'ultimo, mi diceva nella sua lingua. Ho detto no, grazie, no, no, e ho insistito, ho dovuto insistere, altrimenti stava per spararmi sta roba sopra e io non la mangiavo, praticamente. Ma secondo me il fatto è che ci sono persone che naturalmente no, hanno un istinto di autopreservazione, di autoconservazione e le loro conoscenze, il loro percorso anche di studi, eccetera, eccetera, magari li porta insieme a questo istinto e anche libri. A me è capitato di trovare un libro in biblioteca e mi sono fatto le fotocopie, la sana combinazione degli alimenti o corretta combinazione, una cosa del genere. Quel libro mi ha cambiato la vita. Ho iniziato a capire o a sperimentare anche addirittura il crudismo. Io sono sceso di almeno di 30 kg in pochi anni, per esempio, e con quella dieta. Però era troppo esagerata. Comunque poi ho dovuto smettere. Praticamente bisogna capire che c'è un equilibrio acido-base dentro di noi. Le basi sarebbero le cose tipo il bicarbonato. Quindi quello che è l'opposto dell'acido. Ma se tu mescoli l'acido, che sarebbe l'aceto, con il bicarbonato, frizzano e creano una soluzione che tende ad essere neutra. E quindi capisci bene che se il corpo si acidifica, anche grazie al sale che acidifica, ma anche lo zucchero paradossalmente crea acido, con la reazione che si fa con il succo gastrico, che non è sempre acido, come ci hanno insegnato. Il succo gastrico cambia acidità a seconda di quello che mangi. Se mangi il pane senza sale, chiaramente ci sarà un succo d'acido molto blando adatto per digerirlo, anche se in realtà gli alberi di pane io non li ho mai visti. Come non ho mai visto gli alberi di panini, gli alberi di pasta, però la mangiamo, vabbè. Il glutine poi è un'altra cosa che fa molto danno, anche a chi non ha problemi di glutine, perché il glutine è una colla. Ora come ora, tutto quello che fanno, la maggior parte è ricco di glutine, e purtroppo questi grandi disgraziati mettono anche il preparato alimentare nel pane. Magari ti costa poco, sembra buono, però poi vai lì a romperlo o a tagliarlo ed è plastica. Quando è plastica sei sicuro che ci hanno messo qualcosa, ci hanno aggiunto, che non è pane. Ah, il glutammato, pure il glutammato è ancora peggio. Però è un esaltatore di sapidità e lo mettono nel dado. Mai comprare dado col glutammato. Anni fa comprai il dado che c'era ancora, non lo fanno più perché non lo comprava nessuno. Il dado senza niente, naturale, bio, eccetera, eccetera. Però aveva anche lui i suoi inconvenienti, era tutta una roba appiccicaticcia, diciamo dura, però non mi faceva male. Invece quello col glutammato era buono, gustoso, faceva, però alla fine faceva danno. L'ideale sarebbe coltivarsi da sé gli ortaggi, la frutta, tutte cose, o comunque andare da chi, insomma, le fa naturali e pure per come le abbevera, quello che usa i cucini, non c'è roba tossica. Ci scambieremo pure questo che io non so onestamente. Devo lasciarvi, mi è stato utile, comunque mi ha fatto tanto piacere poter scambiare con voi punti di vista, informazioni, e se ho qualcosa ho fatto di buono, di questo ne sono felice. Adesso io vado, buonanotte, ci scriviamo domani e quindi statemi bene, dormite bene. Sì, lo seguo e ho visto quasi tutti i suoi video e devo dire che ci ha azzeccato, solo che ultimamente non vuole proseguire, a quanto ho capito, e si è spaventato, secondo me, o boh, non lo so, in base alle ultime notizie. Adesso si è molto fermato, da quando ha fatto l'intervento non intende più andare avanti più di tanto. Poi lui ha detto a un certo punto, potrebbe essere vero come no, però magari è vero, no? Che dopo che ha fatto notare che il Papa pare che gli abbiano amputato parte del piede, e insomma quella storia particolare che ha spiegato lui in uno dei suoi ultimi video, ha detto che ha ricevuto delle minacce. lui, addirittura pure il suo consulente. E quindi da allora si è molto limitato. Ora non scrive, non fa più nulla. Lui sostiene che Facebook gli impedisce di... Ma io non ci credo. Cioè, ha paura. L'ha detto pure durante il suo video. Se è vero quello che dice, certo che è preoccupante. Ha detto, io comunque di queste cose che non dirò, perché non ha detto più di niente nell'episodio velenoso, ho informato altre tre persone, ha detto, che se mi succede qualcosa faranno sapere queste informazioni che io non ho detto. Nel filmato non dice più. E neanche intende andare al nord, quindi mi sa che dovrete arrangiarvi tra di voi. Secondo me non è solo qui se riesce in Sicilia, perché comunque non penso che... Ma non è solo quello, è tutto... lui ha anche dei problemi di salute, è tutto uno sbattersi. E dovrebbe andare in macchina, che lui ha detto che usa la macchina ogni volta, non usa mai i mezzi, ha detto lui, con la moglie, quindi... Poi comunque dovrebbe pagare tutto di tasca sua, anche questo ha detto, io devo pagare 1.000-2.000 euro, che devo pagare pernottamento. Qualcuno già gli ha detto che avrà vitto e alloggio gratis quando andrà nella sua zona, io spero che ci vada, insomma, così può informare, perché quest'uomo ha un'intelligenza che non è proprio tanto, è un po' insolita. Riesce a interpretare le cose... c'ha una mente, diciamo, non solo logica, ma pure tipo Sherlock Holmes, fa le deduzioni. Sì, perché da adesso in poi non sapremo il retroscena, che lui li saprà anche grazie ad altre cose che possiamo immaginare. Vi dico solo questa. Qualche 20 anni fa, quando c'era in ascesa una certa persona, ci fu un politico che era legato a lui e fece, sai, il suo solito comizio. Dopo il comizio, che era al chiuso in una palazzina qui che c'è qui, praticamente ci disse, no? D'ora in poi, dice, noi abbiamo vissuto bene finora, con i diritti e tutto, adesso si tenderà a togliere i diritti e si sta avverando, ma l'ha detto 20 anni fa. Nel futuro, dice, ci sarà meno possibilità di lavorare, ci saranno più doveri che diritti, si sta avverando, lo sapevano già. Sicuramente, perché in questo qua, bah, non dico altro, bah. Sono almeno 20 anni, se non di più, che sta in politica, cioè seduto sulle poltrone, prima qui nella mia regione, poi è andato là, sarà almeno 10 anni che è là. Ma sì, è bello che fissate. Se per caso perde il posto al Parlamento, c'è già pronto un altro posto all'università. Bene, Morfeo mi chiama verso il letto. Vi saluto, statemi bene, buonanotte. Alla prossima, Buonanotte, ciao. ciao, ciao, ciao, ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, vado anch'io. È stato un piacere anche per stasera. Alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Anch'io, Nanna. Buonanotte a tutti. Ciao.